pesa tra camminato, non so quanto, non so dove sono qua. So soltanto che si sente un buon profumo, un bel silenzio e l'acqua che va. Lontano da me, lontano da noi, lontano da una giostra che non si ferma mai. E c'ho un biglietto, sì, ma questa corsa la vorrei lasciare fare a voi. Solo a voi, la lascio fare a voi, che io sto bene qui. Sento arriva il fosso, io sto bene qui. Sento arriva il fosso. Oh, è il riflesso della luna. Se vuoi siediti, hai parcheggiato e camminato, non sai quanto, non sai dove sei, ma sei qui. Lontana da te, lontana da voi, lontana dallo specchio che non dice chi sei. Se sotto il cielo c'è qualcosa di speciale, passerà di qui. Apparecchiato per il loro picnic, con sedie, tavolini, la TV, telefonini e le facce di chi va. Lontano da chi, lontano da chi, lontano, poi sentito dire senza.